Non c'è limite al peggio, cari amici, buonasera a tutti quanti, benvenuti, quella che state ascoltando è l'Iradio Station e benvenuti ad una nuova puntata di Non aprite quella persiana. Innanzitutto voglio augurare a tutti quanti voi buon anno, anche se in estremo ritardo, visto che siamo all'8 di gennaio, e vi do il benvenuto. Siamo arrivati alla seconda puntata, noi quest'anno stiamo facendo le cose ogni morte di Papa, sperando che non muoia Papa... Papa Francesco è un grande, però purtroppo abbiamo vari impegni e quindi non riusciamo a essere in maniera molto diretta e molto più impegnata a questo progetto, però quando riusciamo a fare qualcosa andiamo in onda. Voglio ringraziare per questa puntata i ragazzi di Matteo Mondo per quanto riguarda gli scherzi e voglio ringraziare anche e soprattutto i ragazzi di Nonna Maria TV per le loro scenette, per averci ceduto qualche scenetta da farvi ascoltare. Detto questo, penso che sicuramente in questo periodo dopo le feste siamo un po' tutti appesantiti. È stato un Natale in cui si dice sottotono causa la crisi, la povertà, la disoccupazione eccetera eccetera, però tutto può mancare, ma tranne che il mangiare sulle tavole degli italiani. Devo dire che non è mancato minimamente anche quest'anno. Quindi ringraziamo tutte le mamme, tutte le zie, tutti i parenti che si sono messi ai fornelli e che non ci hanno fatto mancare nulla sulle tavole. Detto questo, mi veniva di dire questo. Ragazzo, voglio salutare l'amico Fritz che ho qui da qui davanti. Ti chiamo Fritz, va bene? Che mi segue a livello di regia e niente, voglio salutare ovviamente tutte le persone che hanno fatto parte di questo programma, che sia dall'avventura di Web Radio Luzzi che sia durante l'avventura di l'Iradio Station. Voglio ringraziare e salutare anche Rosaria, Cristina, salutare Cristina e tutta la famiglia, bellissima famiglia, e ricordarvi sempre caseificio Roberti, lo ricordo sempre ogni puntata, lo ricordo anche oggi, scusatemi, ma non è una marchetta, me ne è obbligatorio ricordarlo. Sto scherzando, dai. Detto questo, credo che è un bel po' che sto parlando, quindi di conseguenza credo che sia giusto mandare in onda un po' di musica. E ci ritroviamo fra poco, sempre qui con Non aprite quella persiana, quarta stagione, prima stagione, non mi ricordo, prima o seconda o ultima, non si sa, puntata, questo chi vivrà vedrà. Musica, maestro. Sempre più lucido, sconfitto e livido, sotto un cielo ruvido, cambiare destino e dare un senso alle lacrime, come rinascere, e poi non è importante se nessuno parlerà, nessuno parlerà di noi. Tratti, vediamo fuori fuoco bianco e nero come i gatti. Ascoltiamo quello che vogliamo, non sappiamo chi siamo. Pupazzi schiacciati dai palazzi, perché tutto è più grande di noi. Parti alla grande, riempi i serbatoi. Se hai delle chance, giocale al meglio che puoi. Yeah. Prendo le mie rime e me ne vado a scomparire nel vuoto più vuoto del buio. Svuoto la testa e non brillo, campo in assenza di scopo delle linee. Oh, scrivo per gli arditi, fratelli aboliti. La strada ci ha uniti, sfatando i semiti. Resto invisibile, vivo l'essenza dei miei obiettivi. Oh, no. Siamo qui e ricorda quel che sei, grida al mondo, siamo noi. Ho visto tutti cadere, rialzarsi, puntare il cielo raggiungendo gli astri, sfiorando il sole ma senza ascoltarsi, salvando tutti i demoni rimasti. Il dolore che dentro lo senti, metti a te stesso nei tuoi sentimenti, perché appartenere perdenti, se vuoi qualcosa cazzo te la prendi. Oh, noi invisibili, gli ultimi, ma noi. Eccoci ritornati cari amici, Non aprite quella persiana, puntata 2, che potrebbe essere l'ultima, la penultima o non si sa. Abbiamo appena ascoltato gli Ape Escape con Invisibili, i secondi classificati di X Factor. A proposito di X Factor, apro una piccola parentesi, l'X Factor fatto su Sky rispetto a quello fatto nella Rai qualche anno fa non ha proprio, è totalmente di un altro livello, anzi di un altro pianeta. Chiusa parentesi. Detto questo, vogliamo lanciare il primo scherzo della serata fatto dai ragazzi di Matteo Mondo. Ringrazio i ragazzi di Matteo Mondo, di Matteo Motto, che mi permettono di mandare in onda i loro scherzi. Li ringrazio sentitamente. L'argomento di questo scherzo è la benedizione della casa. Forse quelli che conoscono, quelli che vivono al sud come noi, la maggior parte di tutti noi, se non tutti quelli che ascoltano, sanno perfettamente che quando il prete viene a benedire la casa, eccetera eccetera. Lo scherzo si basa su una benedizione telefonica da parte di un prete, perché i ragazzi si vengono dei preti che vogliono benedire la casa. Una cosa un po' strana che suscita l'ira di qualcuno, però non voglio anticiparvi nulla di questo scherzo, per cui lanciamo lo scherzo a tra poco. Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Fra Guido della chiesa di... Non ho capito. Sono Fra Guido, frate Guido. Sì, che devo fare? Ecco, mi piace come ragiona. Allora, io sto chiamando i fedeli. Lei è una fedele, giusto, e credente? Illuminazione per dove? No, le chiedevo se lei era credente. Ma io non sono di qua. E di dov'è? Mia sorella che abita lei, qua. Lei è più di là che di qua. Non lo so. Non lo so. Lei ci... Lo so. Lei crede? Lei è credente, crede? Perché tu non ci sei? Come no, signor, ma io lo chiedo a lei. Cazzo, va bene, va bene. Signora, un attimo. Ti ringrazio. L'ho chiamata per una preghierina veloce veloce. È disposta a fare una preghiera con me veloce veloce? Ciao. Pronto? Perché? Signora. Ha raggiunto l'illuminazione. Quindi evidentemente scassa. L'illuminazione per dove? Ma che... Non lo so, richiamala. Pronto? Signora, perché hai chiuso il telefono? Stavo parlando. Io non ti conosco. Io sono frate, quello che ho detto prima, anche mi ricordo. Francesco? Frate. Signora, il frate. Facciamo una pregherina veloce. Pronto? Pronto. Sì, è pronto, abbiamo fatto 5 minuti ma fa. Ma non ti capisco bene perché sta alto il volume della televisione, non ti capisco. Abbassa la televisione, sorella. Va bene. Abbassi il volume della televisione. Buona serata. No, ma come? Ma lei capisce tutto? Questa capisce l'opposto di quello che dico. Ma che cazzo? Pronto. Dimmi. Pronto. Salve, io sono frate Marco. Chi è? Fra Marco, della chiesa, della parrocchia di... Ma poi che è successo? Stavo cercando di raggiungere sua casa per benedì. Ah, quando? Adesso, sto in giro ma non riesco a trovarla, dove sta? Ma chi? Che stanno trovando? La casa da benedire. Non è qua. E dov'è? Là? Non lo so. Qui, qua. Ma dove posso... Come mi puoi indicare dove è casa? Cioè, come arrivo? Perché se no dobbiamo fargli a telefono. Io non so niente, non c'è nessuno qua. Ma lei non sa dove abita. Chi è? Io? Lei è conoscenza del luogo in cui risiede? Insomma, ma lei chi è? Sono frate Marco. Sto cercando di benedire. Posso farlo via telefono? Ok, allora lei alza il telefono in aria così mando la benedizione. Fatto? Sì. Vado? Sì. Oh, entra in questa casa, spirito divino, e benedici Padre nostro come se fosse Antani. Fossa Antani, come se fosse prematurato, dove cazzo a destra, giù e su, sinistra, Signore e Dio in lui, perché tutti i peccatori non sono peccatori, ma come se lo fossero anche Antani, se era prematurato, giù e su, ma perché io non trovo il posto, se tu lo trovi qual è il costo, io vorrei cominciare a reppare, ma andiamo tutti a cagare. Pronto? Pronto? Ma qui mi sembra che la benedizione non gli è stata di suo gradimento, va a finire. A me piace essere moderni. Pronto? Portati bene. Ma tu sei scemo e quando parli non ci credo. Pronto? Pronto? Pronto? Buonasera. Salve. Ciao Marco. Salve. Come va? Bene, tu? Tutto a posto. Ok. Sì, che mi dici? Niente, forse non ho capito chi sei, scusami. Marco. Ma Marco? Ma come, non mi riconosci? The fire, and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from out of space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, pray it loud, giving love. Eccoci ritornati cari amici, quella che avete ascoltato è da Ellen Goulding con Burn, spero di averlo detto bene perché il mio inglese non è dei migliori. E partiamo subito con le notizie, notizie strane dal mondo. Abbiamo detto all'inizio puntata che non avremmo trattato né cronaca nera, né cronaca rosa, né cronaca di nessun tipo, ma notizie strane dal mondo. e parliamo di un ubriaco che chiama la polizia e gli dice che vuole delle patatine, altrimenti spara a qualcuno. Un uomo del North Bedford, nella provincia canadese dello Saskatchewan, spero di averlo detto bene, è stato arrestato dalla polizia dopo diverse chiamate al 911 dove chiedeva patatine e altro da bere. Gli operatori del servizio d'emergenza hanno infatti ricevuto un'insolita chiamata alle 3 di notte da parte di un uomo che dava l'impressione di essere abbastanza brillo, chiedendo che gli agenti portassero delle patatine e delle sigarette. L'operatore ha gentilmente spiegato che l'uomo, che la sua richiesta non rientra tra i compiti della polizia. Il quarantenne, di cui non è stato reso il nominativo, ha però richiamato poco dopo, chiedendo questa volta che gli portassero una bottiglia di vodka. Al nuovo rifiuto dell'operatore, l'uomo ha detto che non aveva con sé, che aveva con sé un fucile, e che le sue richieste, se non fossero state esaudite, avrebbe fatto del male a se stesso o a qualcun altro. A questo punto l'operatore, qua siamo ai limiti della cronaca nera, veramente abbiamo detto che di cronaca nera non ne avremmo parlato, però diciamo, a questo punto è stata inviata una pattuglia e dopodiché, dopo qualche discussione, sono entrati gli agenti, ma quando hanno visto che non gli avevano portato né le patatine né la vodka, si è addormentato. Gli agenti lo hanno denunciato che era praticamente altamente proprio di armi da fuoco. Sono cose che capitano, sono cose che capitano. Positivo alla marijuana, ma per sbaglio. Chi non rimane positivo alla marijuana per sbaglio? Alla fine il giudice ha creduto alla versione di un giovane, assolvendolo dalle accuse. Il 26enne era stato fermato dalla polizia mentre tornava a casa in auto dopo una festa e gli agenti avevano fatto sottoporre gli esami del sangue perché sospettavano che avesse... Gli esami confermano che nel sangue del ragazzo c'erano tracce di marijuana, praticamente del principio attivo della marijuana, e il giovane si è strenuamente difeso, sostenendo di non aver assolutamente fatto uso di stupefacenti, ma secondo la versione dei fatti il ragazzo, che avrebbe costruito, avrebbe mangiato una fetta di torta il cui impasto era stato arricchito a sua insaputa con della marijuana, quindi e con sostanze abbastanza stupefacenti, diciamo. Detto questo, io direi di mandare in onda un po' di musica e ci ritroviamo fra poco, perché dobbiamo dare la linea a oltreoceano e poi vi spiegherò perché. A fra poco. Sono mai cambiato, la la la. di GQ. Elegantissimo anche in jeans, un po' selvaggio e un po' ribelle come Steve McQueen. L'accessorio giusto a mio agio in ogni posto, dall'oasi nel Sahara all'happy hour. Mentre io mi specchio e qualsiasi cosa metto, c'è sempre qualche cosa che non va, va, va, va, va. Davvero che peccato, shalala. Ecco, siamo ritornati sempre qui su Non aprite quella persiana. Dopo le notizie strane dal mondo, io in maniera molto molto breve e veloce do la linea a Oltreoceano con Pasquale e Rosina in uno dei loro episodi. L'episodio di oggi, tocchiamo tutti quanti ferro, è i funerali. Dea con la scenetta di Pasquale e Rosina. A fra poco. Giuseppe, sei pronto? Besbrigati, sì, sì. Così l'ultimo giorno non cacciamo davanti al suo funerale, dai. Va buono, io. Che suo poveraccio doppio dei gianni dentro che la seggia rotella ha fatto la morta su. Vediamo, ya, sbrigati. Ma che lo pigliano ad attacco? Saccio che l'è pigliata, è morta, è finita, basta, dai. Che ne da sa, ne da sa qualche sordo? A tia, t'ha lasciato sordo? Non torruno t'ha lasciato a tia. Un torrone. A frate ti ha lasciato anche una cosa, che la puttana non è cognata, che ti ha lasciato, sta minchia ti ha lasciato. Bastardo. Che frate ti ha saputo fare, hanno visto come si lisciavano sempre a ziota. E ziota ci stava per i lavi con là. Hai ragione. O non potevano vedere mentre che era vivo, non c'erano mai, ero io a trovare, e ora alla fine ha visto a ieri che si facevano chiando, si facevano ma chiangiamo cazzo, gli attacchi. Lacrime ciucci. Lacrime di cazzo davvero. Che gente brutte, non ne posso vedere. E che la cognata tua non ha visto con che la vesta nevora si faceva tutti, hanno detto, oh, io zio Raffaele mia, chiangiati sto cazzo, chiangiati bella sì, mia. Eh sì, chiangiava tutti i soldi. Eh sì, chiangiava tutti i soldi che sa di andare a banca, mo che era zoccolona. Sa a mia mi hanno detto che su ghiotta già se si compra macchine, macchine no, cadalacchi, cadalacchi su ghiotta a comprare che si ca. A mia me l'hanno detto gente, capo, io saccio anche una cosa per cavallo, io fora, che ne saccio io. Io ci auguro io buona, ma che sono gente brutta, maledetta. Te va fanculo ci faccio corna. Corne, appunto. All your insecurities are better. free. Will you do the same for me? E questa era la bellissima Katy Perry con Unconditionally. Spero di dirlo bene, anche perché non parlo inglese, ma spiccio con una parola in inglese, quindi spero di averlo detto bene. E in questo momento è arrivato il momento di dare la linea alla stazione più pazza del mondo, ovvero alla stazione di Crazy Ferrovie, gli annunci più pazzi di Trenitalia. Buon divertimento! Trenitalia informa che il treno proveniente da Bari Centrale è diretto a Milano Centrale ai servizi igienici fuori uso. Il treno non effettua nessuna fermata intermedia. Frosinone, stazione di Frosinone. Il treno regionale 74 90 56 11 tombola. Ho vinto 5 euro, tutti a 10 centesimi. Frosolone, stazione di Frosolone. Trenitalia informa che il treno interregionale proveniente da Campobasso non è al momento raggiungibile, si prega di richiamare più tardi, grazie. Trenitalia informa i passeggeri che presto saranno disponibili per i treni regionali carrozze di nuova costruzione, sedili decenti e bagni sempre funzionanti, wifi, vagone ristorante, ah ci avete creduto. Trenitalia informa che il biglietto del nuovo treno Freccia Rossa costa il triplo del biglietto dell'aereo e ci impiega molto più tempo ad arrivare. EasyJet ringrazia per l'attenzione. Il treno proveniente da Roma Termini e diretto a Cassino effettua tutte le fermate ad esclusione di Frosinone. Il treno 66 89 31 delle ore 10 e 56 proveniente da Caserta e diretto a Roma Termini effettua tutte le fermate, ad esclusione di Roma Termini. Trenitalia informa tutti i passeggeri che a causa dell'inquinamento atmosferico, i treni gireranno a targhe alterne. Il treno 74 90 delle 8 e 18 per Roma Tiburtina si è licenziato perché ha vinto a Win for Life una rendita di 4.000 euro al mese. Al suo posto partirà dal binario 1 il treno delle 8 e 32 per Roma Termini. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia informa che il treno spaziale delle 14 e 45 per Abidos è stato soppresso per problemi legati all'iperspazio ed è stato reso disponibile uno Stargate sostitutivo fuori la stazione delle ore 15 e 10. Ci scusiamo per l'inconveniente. Il treno delle 16 e 49 per Cassino è proveniente da Narnia e in ritardo di 99 minuti a causa di Mr. Tumus che ha rubato un calzino a Peter Griffin. Oh! Benvenuto a Narnia, io sono Mr. Tumnus. Ehi, ridammi il mio calzino, bastardo di un caprone. Ehi! Il treno 56 radice di Pi greco per Ogurs è in partenza dal binario 1 anziché dal binario 9 e 3 quarti. Trenitalia informa che la stazione di Monopoli è stata scambiata con Viale Accademia più un uscire gratis di prigione. Ci scusiamo per l'inconveniente. Il treno 000000 per Cassino proveniente da Cassino è fermo al binario 5 per problemi legati alla gestione ferroviaria. Trenitalia rende disponibili pullman della Cotral sostitutivi per Cassino davanti la stazione di Cassino, ci scusiamo per il disagio arrecatovi. Trenitalia consiglia di viaggiare in aereo o al massimo in auto. Trenitalia ringrazia per l'attenzione. Si consiglia di convalidare il biglietto prima di salire sulle vostre autovetture per non rischiare di prendere una multa dalla polizia di Stato. Si prega i signori viaggiatori di munirsi di biglietto convalidato, di carta igienica e dei sedili. Trenitalia si scusa in anticipo. Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città, della sua gente e delle sue manie, due discoteche e 106 farmacie. Club Dogo 883, bella Max, con un deca non si va più da nessuna parte. E ci troviamo ancora al punto che si gira in macchina il mattino alle 3, alla ricerca di qualcosa che poi cos'è non lo sappiamo nemmeno noi. Con un deca non si può andar via, non ci basta neanche in pizzeria. Fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà. In questa città vai Max. Oggi un deca, due pacchetti di sizie, zio due riviste, una coca e due vizie. Non come da sbarbato, padrone del mondo ma senza un soldo bucato. Da zero poesia, prima andavi via con un deca, ora con un deca vai via. Zia il grano che abbaglia, ma questa è l'Italia. Brucio sto deca, mi accendo una paglia. Di un tabaccaio neanche l'ombra oramai, ne restano due, scegli quella che vuoi. Che cosa lascia accesa fare la D? Che poi due stronzi se ne accorgono qui. Guarda di là quei cani che ululano per una femmina che dice di no. Adesso vanno in giro a fare gli eroi, poi torneranno a casa un po' come noi. Con un deca non si può andar via, non si può andar via, non ci va. Ragazzino facevo la vasca con un deca in tasca, ma un deca ti basta quando non pensi a 2 milioni e milioni, anche se insomma lì eravamo i migliori, sognando di andare più in alto dell'uomo. L'uomo fa i soldi, non i soldi l'uomo, e se con un deca non si può andar via, ci resta la testa e questa fantasia. È l'ora che si tira fuori le idee per diventare miliardari, anche se esiste già quel che vogliamo inventare. Ci manca solo il disco orario solare, resta la soluzione di Peter Rock. Molliamo tutto e ce ne andiamo a New York. Ma poi ti guardi in faccia e dici dov'è, che vuoi che andiamo con ste facce io e te. Con un deca non si può andar via, non si può andar via, non ci va. Siamo ritornati cari amici, quella che state ascoltando è sempre l'Iradio Station, non aprite quella persiana. E ora parliamo delle notizie delle 10 notizie più strane, secondo Yahoo, del 2013. Apriamo con questa top 13 che va ad un esperimento dell'avventuriero Craig Stewart, che ha presentato 10 modi in cui gli assorbenti possono salvarvi la vita in caso in cui vi ritrovate nella giungla. Un'altra notizia è l'amore per i figli in nona posizione. E volersi fare un tatuaggio per festeggiare la nascita di un figlio può sembrare una bella idea, ma in qualche caso il risultato è decisamente pessimo, al limite molto imbarazzante, in quanto alla fine la donna si è tatuato un teschio con il nome del figlio. In ottava posizione, a tutti capita di non ricordare bene dove si è parcheggiata la macchina, ma il caso di un uomo di Monaco, di Baviera, è probabilmente un record. L'uomo non aveva più ritrovato l'auto dopo una festa nel dicembre 2010, avendo dimenticato completamente dove l'aveva parcheggiata. A gennaio del 2013, praticamente quasi 3 anni dopo, l'auto era ancora parcheggiata al suo posto, a oltre 4 km da dove era l'uomo. Si ricordava di aver parcheggiato. Altra notizia, una notizia controversa, in settima posizione: un chirurgo plastico californiano praticamente ha sottoposto la fidanzata a decine di operazioni di chirurgia plastica fino a renderla la sua donna ideale. Beata lui, beata lei, beata lui, beata loro, beati, tutte e due. In sesta posizione, un bed and breakfast da sogno per gli amanti dei cani, cioè praticamente un bed and breakfast canino, proprio con tutti i comfort che i nostri amici a quattro zampe possono desiderare. La quinta posizione va alla distrazione di una ragazza americana che è diventata involontariamente una celebrità su internet dopo aver postato la foto di un vestito che voleva vendere su eBay, senza accorgersi che allo specchio era riflessa l'immagine di lei completamente nuda. Se non altro, questo errore l'ha aiutata a vendere praticamente l'abito quasi in 10 volte il prezzo richiesto su eBay. Colpo di culo. In quarta posizione, la strana storia di una neosposa che ha tradito per errore il marito la prima notte di nozze. Dopo essersi alzata per andare in bagno, ha sbagliato stanza ed è entrata nel letto del testimone di nozze, accorgendosi dell'errore solo dopo aver finito di fare sesso con lui. Sti cazzi, devo dire. Terzo posto per un sondaggio che ha esplorato quali sono le cose più schifose che gli uomini fanno, ma che alle donne in realtà non danno fastidio. Da parte nostra siamo un po' dubbiosi che un rutto a tavola sia da evitare, ma alle donne non dà praticamente fastidio, mentre durante un bacio non crei problemi neanche minimamente alle donne, né a tavola né durante, diciamo, il limonamento. Questa è la piazza d'onore numero 2. Troviamo Elena Design, che ha conquistato il titolo di studentessa più arrapata del Regno Unito con una media diversi ogni settimana. È il titolo di ragazza per cui la ragazza va orgogliosa, ma non tutti i commenti sono stati di ammirazione, e mi immagino i commenti maschili. La palma d'oro va alla notizia dell'anno, va al coraggio di Walter Serkit, che non ha esitato a sfidare l'incendio che stava assediando la sua casa per tornare dentro sfidando le fiamme per recuperare la sua cassa di birra che era minacciata dal fuoco. E a proposito di birra, chi non salverebbe la in fiamme? Peraltro sembra che si trattasse anche di birra di media qualità, quindi di qualità di discount. E questa era la top 10. Detto questo, mandiamo in onda un po' di musica e ci troviamo fra poco. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you, na na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na na. True. beautiful bodies running off in that glue. Drunk in love, we'd be all night. Love, we'd be all night. Love, we'd be all night. And everything alright. No complaints from my body, so flow resting under these lights. Boy, I'm drinking, walking in my last 7 minutes. I'm rubbing on the rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta wife. Louis shit, he sweat it out like wash rags. He wet it out. Boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy toys. Then I fill the tub up halfway. Then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard. Graining on that wood. Graining, graining on that wood. I'm swerving on that. Swerving, swerving on that. Big body been serving all this. Swerf, surfing all and it's good, good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off of that club. Drunk in love. If I do say so myself, if I do say so myself. Hold up, stumble all in the house. Time to back up all of that mouth that you had all in the car. Talking about you the baddest bitch thus far. Talking about you be reppin' that bird. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink, clink. Eccoci ritornati amici. Quella che state ascoltando è sempre l'Iradio Station. E ridò la linea molto velocemente agli amici di Matteo Mondo con un nuovo esilarante scherzo. A fra poco. Experience, buonasera. Buonasera, salve. Parlo con la scuola di informatica? Sì. Salve, io volevo avere qualche informazione riguardo ai corsi privati per imparare a usare il computer, che io proprio non ci so mettere mano. Sì, che genere di informazioni voleva? Più o meno quanto costano i corsi, quanto durano, gli orari? Allora, un corso di base costa 550 euro e dura 4 mesi. Economico. Dura 4 novembre e il pagamento si svolgono alle 2:30 di pomeriggio. E il pagamento come viene effettuato, mensilmente? No, il pagamento o paga diciamo all'inizio corso, oppure se vuole farlo rateale può farlo con i bollettini postali o a debito sul conto. Ah, ottimo, ottimo. Sì, preferirei questo perché sono un po' squattrinatone. Comunque, niente, quindi praticamente io quando esco da là c'ho un attestato che io so usare il computer, insomma. Sì, fa il corso, fa gli esami finali, al superamento degli esami riceve l'attestato. Ho capito, no, perché io ho una certa età e non so usare il computer, quindi pensavo che magari poteva essere utile imparare. Sì, beh, se non ha mai fatto, diciamo, corsi di questo genere, è normale che è utile. Il computer si usa in qualsiasi ambito lavorativo, quindi, diciamo, non conoscerlo può essere un problema. Ma io più che altro a casa lo volevo usare, perché mia moglie se n'è andata qualche mese fa e non... Non, cioè, non proprio qualche distrazione un po' più potente della TV, quello volevo. Sì, e poi vabbè, certo, anche per applicazioni private è ovvio, diciamo, può utilizzarlo come meglio crede questo corso, poi alla fine quando sai usare il computer. Va bene, quindi praticamente poi dopo posso comprarlo un computer con l'attestato, cioè vado da uno e gli dico ho l'attestato per comprare, ci vuole tipo una patente. Sì, certamente, se vuole lo può ordinare anche da noi, che ci sono degli sconti. Immagino. Per i nostri allievi. Ah, perfetto, ok, quindi anche sia tipo... portatile che fisso, come lo vuole. Magari insomma, portatile, sì. Perché poi se la voglio portare in bagno. Ecco, il tipo di computer più usato, infatti. Ho capito, quindi praticamente poi io sarò in grado di navigare in internet. Certo, come no, certo. Vabbè, poi mi vergogno a dirlo, però anche di navigare in quei siti un po' sezzi. In quei siti un po'? Un po', capito, perché io ho morta mia moglie, quindi un po' che ti consolano dalle mogli che non muoiono, insomma. Quelli... Guardi, una volta conosciuti gli strumenti, lei può farne l'uso che vuole, insomma. Quindi praticamente poi mi insegna su andare su a scrivere quel sito tipo... quello tipo pornografia.it, questi siti. Ma, la scuola sicuramente non impara a scrivere queste cose. Ho capito, non imparano nemmeno la grammatica. Comunque, vabbè, quindi praticamente lei mi dà la sicurezza. Adesso io le lascio il nome così prendo un appuntamento. Se vuoi, mi può prendere l'appuntamento direttamente anche adesso. Ma posso venire là subito? Quando vuole passare? Tra mezz'ora. Allora, tra mezz'ora, un attimo che controllo. Sì, alle 17.30. Ok, certo. Va bene. Quindi lei mi dà la sicurezza che poi dopo io posso andare sui siti così un pochino... A me quello lei interessa. Prende la patente dell'automobile, lei impara a guidare la macchina, poi ci va dove vuole. Quando posso andarci a puttane, invece in questo caso vado a vedere i film. Ognuno fa quello che crede, insomma. Immagino. Va bene, ok, grazie, grazie a lei mi sparerò tante pippette. Ciao. Buonasera. Salve. Questa era un'altra delle novità di X Factor scorso, ovvero Violetta. È arrivato il momento di mandare un po' di pubblicità, ma una pubblicità un po' strana, una pubblicità diciamo molto criptica, se vogliamo dire molto subliminale. 10 minuti interrotti di spot molto molto strani e ci vediamo dopo. Ciao! questi anni gli anni stanno scoprendo un paese dove si fanno migliaia di miliardi e si risparmiano migliaia di migliaia di migliaia di miliardi. Ecco perché la nazionale di calcio beve Puletto, vita giovane. E bamba, ma la vai e dato bamba. Buono questo vino, come si chiama? Cazzo, chissà come lo fanno. Bamba. E da oggi Calzino s'allunga e s'allarga. Calzino, ci puoi sempre contare. Anche effervescente. Questa volta ho deciso, vado fino in fondo. Alzati dal divano, apri la bocca, la tua bocca naturalmente. L'unica così ruvida e porosa. Mm-hmm. Per assorbire al meglio il sugo. Che bel cazzo di cioccolato in mezzo a due croccanti biscottini. Non finisco più. Fino al 30% di allungamento visibile, fino all'infinito. A partire da 700 milioni 7.000. Questi sono filetti di Lisca. La bontà è diventata semplice. Wonga, ci wonga, bara, wonga, ci wonga. Pensi di conoscere tua zia Emma? Vieni a scoprire tutto quello che ti può dare. Per colpa dell'anticalcare sbagliato, si è rotta la suocera. Investimenti personalizzati, consulenza esperta. Investimenti personalizzati, consulenza esperta. Grandi partner europei. Grandi partner europea. Grandi partner europelli. Due sportelli. Credito Cooperatelli. Quando vuoi, quanti ne vuoi? Perché i zivarini sono fatti solo di grassi, senza un grammo di farina, senza uova, senza zucchero. Per questo è sempre l'ora dei zivarini. Fredolina, che c'è di nuovo? Line seta ultra, fatti per essere inzuppati. Gnisskoffi Gel, la puzza unica dello sporco più difficile. E da oggi la forza degli estratti di porco nel nuovo Gnisskoffi Gel Puzza. Sono nato col culo al caldo io. Gente come me può solo lasciarsi andare. Ma me ne fotto se lei ha mollato. Sì, me ne fotto e me ne fotto. I miei muscoli daranno più forza al culo. Io vedo il mio culo al caldo, sì, lo sento. Lo voglio. E in ogni uscita, la coppola. Vogliamo dare voce al mondo agricolo. Hai i fianchi morbidi. Cammina e scodintola davvero. Maxi Lucerta, Maxi Merenda. Dal primo dicembre al cinema. Lunedì 45. Che cos'è? Non lo so. Io non saprei che altro fare. Anche io neanche. Per la prima volta insieme, Al Pacino, Robert Pacino, Al De Niro, Robert De Niro, Robert De Cino. Lunedì 45. Ogni giorno che nasce, scegliete voi come vi scelgo. Se amate il piacere, provate pasta frolla classic. Pasta frolla ripiena di morbida pasta frolla. Pasta frolla classic. Il piacere di croccante pasta frolla, pasta frolla. Sole 900.000 lire. Se osassi lasciare, che male ci sarebbe? Speciale sistema che libera aria. La ricerca ha creato un dentifricio completo che in più mantiene carie, tartaro e problemi gengivali per combattere il bianco naturale dei denti. Nessun dentifricio è più completo. È il buon perappia. Perché mi guarda così? So cosa ti passa ora per la testa. È contento con tanto formaggio. Muove le orecchie se tiri formaggio. Muove le orecchie se tiri formaggio. È contento con tanto formaggio. Da regista del Sesto Senso. Drenalex Più, l'integratore dietetico che contribuisce a riattivare le funzioni drenanti del tuo orgasmo. Drenalex Più, il drenante attivo per ridurre i liquidi del cesso. Più leggera, meno gonfia. E lo scarico respira. Allora, fuori c'era la vetrina e tu non l'hai vista. No. E le clienti non le hai viste. No. E non hai visto la vetrina. No. Cazzo, ma tu? No. Beh, ciao. Finalmente un nuovo gioco divertente pieno di sorprese. Il soffice piacere del mattino. Pulisce meglio Plaque Troll D o uno spazzino manuale? Uno spazzino manuale stacca in profondità la placca tra i denti. Plaque Troll D invece? Beh, si sa. Spazzino manuale. Da oggi leviga, lucida e rimuove la ruggine. Vedi che coltelli online trovi tutto? Guarda. Videoproiettore professionale. Parle online, www.parle.it. Anche per decente. Noi abbiamo sempre bisogno di qualcosa di davvero speciale. Come pane e nulla. Che mondo sarebbe senza nulla? Se chiude gli occhi lui sarà. Dillo con un CD è per sempre. Lucio Bravo, Patti Bravo, Claudio Bravo, Francesco De Bravo, le canzoni d'amore. In ogni uscita una tipica figura del presepe napoletano. Gli otto fantastici abitanti del mare profondo. Anche per decente. Tornano i grandi album. Baglietti, Venciante, Zigioni, De André Rodi. I grandi album della musica italiana in CD. 900 lire l'uno. E il cometto in regalo. Questa settimana questo grande amore di Coglioni. A soli 500 milioni 100.000 lire. A soli 100 milioni 500.000 lire. A soli 30 milioni 500 mila lire. A soli 3 milioni 500 mila lire. A soli 500 mila lire. A soli 30 mila lire. A soli 3 mila lire. A soli 500 lire. A soli 100 lire. È gratis. È il Whopper Appia. La Nogdams presenta. Cosa ne facciamo di questo momento che stiamo vivendo? Basta l'acqua per pulirlo. Richard Gere, Winona Ryder, Richard Ryder, Winona Gere, Richard Holton, Winona New York. Cose di casa ti aiuta a far bella la tua casa spendendo bene i tuoi soldi. Bagni lunghi e stretti, come ricavare un soppalco e uno studio dal bagno. 50 tavoli e sedie a partire da 9.000 lire. Una cucina rustica o moderna a sole 3.000 lire. E poi non perdere casa in fiore. Per catturare più peli più a fondo, senza sacco né acqua. Corpo protegge le tue parti più intime producendo l'arti intime. Però l'Aviset Intimo contiene le tue parti intime. L'Aviset Intimo, naturale, come il tuo porco. La dentiera. Una tradizione che diventa opera d'arte. La mia dentiera non ne ho bisogno. Una collezione da tramandare di padre in figlio. Non me l'aspettavo. Voglio un figlio, ma non lo aspetto. Ehi, sveglia! È ora di sognare! Funziona come un tradizionale segaccio, ma senza fatica. Va su internet www.ifuneranolisrappamesoghesiatelinea.it. È così piccolo. Un cioccolato pieno di cioccolato con un gran ripieno di buoni cioccolati proprio come piace a te. Yogurt, quadrato, pratico, buono. Quadrato, quadratico, quadrono. Farvi gli auguri di Buon Natale, ma non sarebbero bastati. E allora? È il Whopper Appia. Ciccio, com'è grande! E lo ciuccio? Parla! Ciao! Peraltro, l'anno di Barbie! Giochi di oltre, sì! Emozioni. Anche per decenza. Brio Blu Rocté depura l'orgasmo e ti fa sentire pieno di scienza. Ma non era questo che volevo. In edicola c'è una picca esclusiva. Monica Bellucci. Ma era questo che volevo. Scoperta svizzera. A casa del pilota Giancarlo Fichella. Che gioia, sarò mamma. Tu la coccoli e sorpresa, un uovo. E in ogni uovo un culo, tanti culi, ognuno col suo nome e il suo carattere. Tutti da collezionare. Mami, riconosci i suoi culi? Culo. Mami, parla e canta con loro. Mami, coccole e culi, solo da... Pronto? Ti devo proprio ringraziare. Ti ricordi il cocktail di camicia? Beh, omino camicia, è forte sulle camicie, ma sempre delicata sui camici. Ecco. Filo diretto col puto. Noi sappiamo gestire i tuoi investimenti con metodo e con rigore scientifico. E sappiamo trasformarli nel caos finanziario. Il sapere è potere. Il sapere è potere. Oggi c'è un'acqua con solo lo 0,00002% di liquidi che aiuta a prevenire la ritenzione di liquidi. Acqua di Luna Snell 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 pagine e due fascicoli ad un prezzo eccezionale. Con sapore neutro. Mai avuto problemi guinciabili. Magari non incontrerete mai Jack Daniels o Richard McDaniels. qualcun altro degli uomini che fanno Jimmy McGee. Ma ogni volta che ne berrete un sorso, capirete perché sono così importanti. Jimmy McGee, Tennessee Whiskey. Walney Pictures presenta Isegla. C'è una persona per quel lavoro. Isegla. Perché mi guarda così? Isegla si muove anche lateralmente, così veloce che non lo puoi vedere. So cosa ti passa ora per la testa. Lo puoi solo sentire. Così, a fondo, ogni giorno. Isegla, da regista del Sesto Senso. Lancia Libra vi invita a scoprire l'alta tecnologia delle sue dotazioni, come il radiatore. Offerto di serie da oggi su tutte le Libra. Libra e Libra Station Wagon vi aspettano questo weekend col radiatore in tutte le concessionarie. Anche nascere. Allora, io non so se dopo questi 10 minuti non stop di spot ci sia rimasto qualcuno di vivo. Però, cari amici, se c'è rimasto qualcuno, siamo arrivati al termine di questa seconda puntata, che non so se sarà l'ultima, non so se sarà una di una lunga serie. Ripeto, purtroppo noi abbiamo vari impegni che ci impediscono di fare la web radio come la facevamo un tempo, e quindi di conseguenza non riusciamo a essere sempre presenti, però quando siamo presenti lo facciamo presente sul nostro gruppo di Facebook, l'Iradio Station, e anche su Twitter, l'Iradio. Potete ritrovarci lì, ci sono dal sito, potete vedere proprio l'indirizzo e l'hashtag di Twitter e di Facebook, quindi potete scriverci lì. E speriamo di tornare presto, speriamo di tornare un po' di persone insieme, anche perché fare da solo questa puntata è stato un po' una fatica. Però ritorneremo, auguro ai miei compagni una pronta guarigione e un pronto ritorno ai nostri microfoni. Ci vediamo, mi auguro, presto. Se non dovessimo vederci presto, auguro un buon proseguimento di anno, di vita e di tutto. E ora vorremmo mandare in onda l'ultima canzone di questa sera, che è una canzone, la nuova canzone degli U2, che è praticamente dedicata a un grande uomo che purtroppo ci ha lasciati qualche mese, quasi un mese fa, ovvero Nelson Mandela. E noi non siamo un programma che parla di cose serie, però volevamo chiudere facendo un tributo a lui, facendovi ascoltare la nuova canzone degli U2 che si chiama Ordinary Love, una canzone dedicata a Nelson Mandela. Detto questo, vi auguro una splendida serata, una felice notte, un felice proseguimento di vita. Ciao a tutti da Pietro, questa è l'Iradio Station, alla prossima, ciao. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stone.